Dintra la stanzurella fredda scura ad una volta incetra se va sole no stengo solo tengo una paura che a poco a poco me consuma cor paura che mi struia malattia senza vedere ch'io a Napoli senza vedere ch'io a te vorria tornare a te e non a sola Napoli mia per te sentire cantare con mille mandoline vorria tornando te con mano vuota amore mio per te poteva e me senti abbraccia mania, tua bonita mania. Dem dia feliz que te do, o sol no céu surgir, em cada cor brilhó. Volto o sonho tal ao coração. Depois deste dia feliz, não sei se outro dia verá. Amanhã talvez la final manhã de carnaval canta o meu coração alegria voltada feliz amanhã desse amor. que te adoro y en nombre de este amor y por tu bien te digo adiós. Noches de sombra y luz. mañana come e venire mañana come e venire soldiers passing by, listening to the wind.

바람도 넌 멀 바래서 미쳤고 나는 외롭지 않아 구로 나서 네 바라 떨어지면 눈물 다 흐르고 그리다 넌 가슴 가슴마다 대차를 운다시 더 Good.

좀 와만 구하러 수웨고 사촌성을 황홍하 완고리야 실린서 잊었어 옌 부수야